Fabrizio Intonti. Ditemi la verità, vi è capitato ultimamente di fare una passeggiata? Non intendo un tragitto a piedi da un punto A a un punto B, intendo proprio una passeggiata, senza destinazione, senza fretta, senza una meta precisa, una passeggiata. E vi è capitato ultimamente di essere a casa da soli, a pranzo, e di farvi un pranzo vero anche se siete da soli, apparecchiando la tavola, facendovi primo, secondo, sedendovi, mangiando senza pensare ad altro con tutto il tempo necessario? Vi è capitato di organizzare una cena per degli amici con meno di una settimana di preavviso, chiamandoli magari il giorno stesso? E vi è capitato ultimamente, o anche non ultimamente, di prendervi mezza giornata per voi, senza niente da fare, solo per avere mezza giornata vuota per voi stessi? Ecco, io penso che molti di voi a queste domande risponderebbero: ma chi ce l'ha tutto questo tempo? Io non ho tempo. E quelli che lo fanno, dove lo trovano tutto questo tempo? Oggi parliamo di questo. Rubate mezz'ora del vostro tempo, perché oggi cerchiamo di dare tempo al tempo. 800 24 00 24. Non è che un coniglio col panciotto e l'orologio. Può fare, può farissimo. E tardi. Questa sì che buffa. Perché mai dovrebbe essere tardi per un coniglio? Mi scusi, signore? Ma che? Non aspettano che me. In ritardo sono già. Non mi posso trattenere. Deve essere qualcosa di importante. Forse un ricevimento. Signor coniglio, aspetti. No. È tardi, sai. Io sono già in mezzo in guai. Neppure posso dirti ciao. Ho fretta, sai. Eccolo, l'animale mitologico dei nostri tempi, il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie, che va sempre di fretta e sempre in ritardo. E poi, dove deve andare questo benedetto coniglio? Allora, noi siamo quelli di Giro di Vita, io sono Achille Corea e noi ogni giorno vi parliamo di gente che cambia vita, e l'obiezione che di solito ci fanno è: sì, ma per fare queste cose che dite voi, dove lo si trova il tempo? Per cambiare vita ci vuole tempo, per prepararsi, per pensarci, per fare tutta una serie di cose. Allora, noi oggi abbiamo deciso di parlare di tempo con una persona che si intende di tempo, di fretta e soprattutto di lentezza. Bruno Contigiani, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, lei ha scritto un libro che si chiama Vivere con lentezza, che è anche il nome di un'associazione. Sì, l'associazione è L'Arte del Vivere con Lentezza, o Onlus, che abbiamo fondato qualche anno fa, proprio perché così ci sembra che sia un bisogno molto diffuso, e quindi ci troviamo, parliamo con le persone, abbiamo anche un sito, la gente ci scrive, insomma è molto piacevole. Senta, lei ha una biografia bella densa, lei ha fatto un sacco di cose, è stato, diciamo, ha raggiunto anche livelli professionali molto alti, insomma non mi metto a leggere che cosa ha fatto perché ci vorrebbe veramente molto tempo. Ma io la ringrazio. Però lei predica la lentezza, e lei sa che la prima obiezione che si potrebbe fare è che la lentezza di solito porta inconcludenza. Sì, in realtà credo che oramai, ci aiutati purtroppo dalla crisi, credo che ci stiamo rendendo conto che non è vero, perché forse se avessimo corso un po' di meno, forse se ci fossimo affrettati un po' di meno, non saremmo a questo punto, anche sul piano economico, cioè prendendo delle decisioni un po' meno maniacali e sul fatto di voler fare tutto di fretta, di avere tutto nel minor tempo possibile, i maggiori guadagni e così via. Quindi io credo che questa cosa oggi sia messa in discussione, tant'è che proprio in tanti parlano di tempo, parlano di lentezza, anche di slow management. Quindi senta, lo dico perché noi da due settimane raccontiamo storie di gente che cambia vita, e solitamente quando raccontiamo anche storie di gente assurda, gente che è partita, gente che si è inventato dei lavori mai visti, riceviamo solo messaggi di complimenti, anche di invidia, vorrei farlo anch'io. Quando affrontiamo degli argomenti legati a, tra virgolette, spreco di tempo, cioè gente che si prende un anno sabbatico per viaggiare senza lavorare, gente che sceglie di guadagnare meno soldi per avere più tempo, cominciano ad arrivare i primi sms di critica. Ma è un lusso, ma bisogna permetterselo. Il tempo, cioè guadagnare tempo, è il vero lusso del nostro tempo, come se costasse tantissimo. Sì, io penso che sia un vero e proprio lusso, che sia un lusso però, in contraddizione, è un lusso gratuito, nel senso che se ci ragioniamo un po' riusciamo in qualche modo a ricavare del tempo, quindi si tratta di metterci un po' in questa direzione, in quest'ottica, e di capire dove possiamo cominciare a scavare per recuperare del tempo, sempre che ne abbiamo voglia, perché poi non è una ricetta che vale per tutti, c'è della gente che correndo si trova benissimo e quindi, però siccome molti si lamentano di non avere tempo, trovano poi automaticamente la giustificazione per non porci mano. Quali sono, penso che invece si possa fare. Quali sono i consigli pratici per guadagnare del tempo? Ma io direi che, insomma, proprio tendenzialmente cerco di non dare consigli, però detto questo, credo che bisogni partire proprio dal cosiddetto tempo libero che abbiamo a disposizione, perché comunque un po' di tempo libero ce l'abbiamo. È lì dove forse ci infliggiamo i maggiori sacrifici, le maggiori fatiche, le cose inutili che facciamo sempre di fretta, non riuscendo a capire che è un tempo che invece possiamo anche un po' gestire e non riempire, che possiamo anche tenere vuoto. Per cui io partirei da lì, partirei proprio dal tema delle vacanze, partirei dal tema del weekend, partirei dalle serate in cui uno può anche pensare di restare un po' solo con se stesso, leggersi un libro, oppure non partire immediatamente. Naturalmente parliamo di condizioni in cui una persona si può permettere determinate cose. Io ho letto i vostri 14 comandamenti che sono sul vostro sito. Mi sembra che in molti casi siano anche un modo per cercare di non tanto di guadagnare tempo, ma di gustarsi quello che c'è. Ad esempio, leggo: se entrate in un bar per un caffè, ricordatevi di salutare il barista, di gustarvi il caffè e di risalutare barista e cassiera al momento dell'uscita. È questo anche il senso? Sì, è un po' di buon senso, è la riscoperta della gentilezza, che è una cosa che non dico che sia perduta, però tante volte la trascuriamo, quindi il senso è proprio questo, il recuperare il sorriso, recuperare delle cose abbastanza semplici che ci sembrano superflue, ma che invece qualche cosa ci danno, perché poi instaurano immediatamente un meccanismo di risposta e di ritorno che tutto sommato male non ci fa. Ecco, leggendo questi comandamenti mi sembra anche di vedere che però serve un po' di organizzazione. Qui c'è scritto il numero 8, non correte per forza a fare la spesa, senz'altro la vostra dispensa vi consentirà di cucinare una buona cenetta. Io certe volte apro il frigorifero la sera e c'è dentro un limone, un limone che mi dice uccidimi, abbattimi, cioè, bisogna organizzarsi per avere il tempo. Di sprecare tra virgolette. Sì, ci vuole te, è vero, guardi, è perfetta questa sua cosa, perché proprio ci vuole tempo per decidere di darsi del tempo, bisogna pensarci un attimo, però non pensare di essere comunque sempre sull'ultima spiaggia, per cui anche quella sera del frigorifero con solo un limone, vabbè, uno scende e si mangia una pizza, cioè non è necessario che si metta in fila per andare al supermercato al venerdì sera quando praticamente c'è la coda solo per entrare. Quindi voglio dire, con un minimo di lentezza, con un minimo di capacità di fermarsi, di guardare quali sono le soluzioni, quindi prendendosi un po' di tempo, si riesce poi a recuperare delle soluzioni anche banali che altrimenti ci scappano, cioè diventiamo un po' vittime del fare sempre le stesse cose. Io cito il 14° comandamento che mi piace molto, che è: smettiamo di continuare a ripetere non ho tempo, non ci farà sembrare più importanti. E le chiedo due consigli per i nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Allora, la valigia e la zavorra è una rubrica fissa per noi. Chiediamo anche a lei cosa bisogna portarsi dietro e cosa bisogna buttare se uno volesse cambiare vita cominciando a vivere con lentezza. Ma uno, io direi di portarsi dietro, ricordarsi di sorridere, perché questo è fondamentale, guardi, sorridere alla gente, sorridere agli altri, sorridere quando si guardano le persone. E cosa bisogna buttare invece? E invece di converso buttare la rabbia, perché è quella poi che ci fa vedere tutto in modo sbagliato, ci fa correre e non ci fa capire da che parte possiamo andare. Benissimo, io ringrazio Bruno Contigiani, rimando anche al sito dell'associazione che è viverecollentezza.it. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa, pausa. E noi abbiamo fatto questo passaggio da Vivere con lentezza di Bruno Contigiani al Lavorare con lentezza, che è un film di qualche tempo fa che parla delle radio negli anni 70, ma anche perché io so che voi siete lì, lavorate, avete il vostro venerdì lavorativo e dite, vabbè, ma io come faccio a rallentare? O magari ci volete dire qual è il vostro modo di rallentare. 800 24 0024, questo è il nostro numero. Pronto, Valentina? Pronto? Abbiamo perso Valentina, vogliamo... Oh no, Valentina? Sì? Eccoci, sei in onda. Ciao. Allora, tu vivi con lentezza? Io vivo con velocità e riposo con lentezza. È la tua ricetta, diciamo, come fai? È la mia ricetta. Sono sottoposta a termini molto stringenti e non prorogabili per motivi di lavoro. Però poi quando io stacco dal lavoro, stacco, riesco completamente a staccare e nel tempo libero mi godo le attività che mi danno riposo senza nessun tipo di fretta. Tu hai famiglia, figli? No, viviamo in due, non ho figli, e questo devo dire, vedendo le coppie con figli che mi circondano, che è un grosso vantaggio per avere un poco di tempo per sé. Siccome noi ormai abbiamo capito dopo due settimane che cambiare vita o stile di vita non è un, diciamo, la vera domanda non è come si fa, ma è a cosa si rinuncia. A cosa hai rinunciato? Io ho rinunciato nel corso del tempo per fare un lavoro che mi piaceva, quindi quello dell'avvocato, ho rinunciato alla gestione del tempo diurna, alla luce del sole, tranne il sabato e la domenica, quindi c'è tutto il mio giorno che è imperniato sul lavoro, però riesco a ritagliarmi i miei tempi negli orari notturni perché sono insonne, e poi il sabato e la domenica sono sacri, veramente deve esserci una cogenza lavorativa mostruosa per rinunciare a quello. Diciamo quindi che la mia ricetta è limiti fissi tra lavoro e tempo libero, non facilmente superabili, altrimenti si perde serenità. Perfetto, mi hai fatto anche tornare in mente qual era uno degli slogan dell'associazione Vivere con lentezza, abbiamo sentito prima, che è rallentare quando possiamo, correre quanto dobbiamo. Ma per dire che il tempo è prezioso, io vorrei parlare anche con Maria Luisa Petrucci, che è la presidente dell'Associazione Nazionale Banche del Tempo. Benvenuta. Buonasera. Il tempo è talmente prezioso che lo si mette in banca? Eh sì, è l'unica cosa che abbiamo di tanto, no? A differenza dei capitali, che ce ne ha molti, ce ne ha pochi, il tempo è un capitale che possediamo tutti e quindi è importante metterlo in banca proprio per farlo sfruttare al meglio. Concretamente, che cosa si deposita da voi? Io vengo da voi. Concretamente, guardi, lei diceva prima del frigorifero vuoto. Ecco, se lei venisse a iscriversi alla Banca del Tempo non avrebbe più questo problema, perché basterebbe telefonare a un correntista, un socio della Banca del Tempo, e dice stasera mi prepari una piccola cena, ecco che il suo frigorifero sarebbe pieno. E io cosa devo dare in cambio? Lei dà una cosa che le piace fare, che è un hobby oppure un qualcosa che non le pesa fare. Perché, vede, a proposito del tempo libero, noi diciamo in banca che il tempo è liberato, perché se ci affanniamo tutta la settimana e poi ci ritagliamo uno spazio del weekend, anche quello diventerà un tempo affannato, diciamo, no? Perché dobbiamo godere in determinati momenti. Invece noi diciamo in banca, tu vieni in banca e prendi il tempo che non hai per te. Per cui se non ho tempo perché lavoro di andare a fare una fila, di andare a prendere un giorno i figli a scuola, di farmi un orlo e pantaloni, quel tempo che io non ho e che mi pesa appunto durante la giornata, lo posso dare, lo posso affidare ad altri. Mi tolga una curiosità. In cambio. Io posso appunto preparare una torta oppure portare una persona in macchina oppure fare un bel laboratorio di cineforum o di inglese o di computer. E mi tolgo una curiosità, il tempo lo si scambia, diciamo, in maniera paritaria? Un'ora di torta vale quanto un'ora di fila alla posta? Certo. Lo scambio è paritario, nel senso che a differenza del mercato tutto ciò che si scambia ha lo stesso valore, per cui un'ora di un corso oppure di un laboratorio qualsiasi vale un'ora di una persona che ti viene a mettere a posto gli armadi. Perfetto, e c'è qualcuno che voi sappiate vi ha detto che questa cosa gli ha veramente cambiato la vita? Beh, nella nostra esperienza ormai a Roma e in tutta Italia le banche del tempo sono dai primi anni 90 e in effetti la cambia la vita non soltanto, diciamo, per quell'aiuto quotidiano, piccolo o grande che possa essere, ma perché proprio la reciprocità che si instaura dai membri dell'associazione ti aiuta a vivere meglio, ti aiuta a rilassarti, ti aiuta anche a capire quello, per esempio, che non sapevi di avere come risorsa, perché nel momento in cui tu ricevi devi anche dare, questa è la regola fondamentale della banca del tempo. Perfetto, quindi... noi la ringraziamo e invitiamo tutti i nostri ascoltatori che fossero interessati a migliorare la loro qualità della vita cercando le banche del tempo in tutta Italia. Per arrivare a timbrare il cartellino d'entrata alle 8:30 precise, Fantozzi, 16 anni fa, cominciò col mettere la sveglia alle 6:15. Oggi, a forza di esperimenti e perfezionamenti continui, è arrivata a metterla alle 7:51. Vale a dire al limite delle possibilità umane. Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Non ce la farò mai. Prenderò l'autobus al volo. E questa è la vostra vita, i tempi cronometrati, la mattina di corsa, ogni minuto che perdete può provocarvi uno shock durante la giornata. 800 24 00 24 per dirci se è così o se avete trovato dei modi per risolvere questa situazione e guadagnare del tempo. Roberto, pronto? Ciao. Roberto da Bari, dici. Ciao, non sapevo della banca del tempo, dell'esistenza, almeno qui io al sud non sapevo, non so se c'è un'associazione qui a Bari. Sì, si può cercare su internet, guarda, associazione nazionale bdt.it. E come si organizza una cosa del genere? Guarda, puoi chiedere, guarda, puoi andare sul sito e chiedere. Tu invece come gestisci il tuo... intanto abbassa la radio, scusa, perché altrimenti... No, non sono collegato, sono solo col telefono. Ah, ok, e dici un po' come organizzi il tuo tempo. Come io organizzo il mio tempo? Sì, sì. Come il tempo organizza? Praticamente come posso, come il protocollo ormai della vita, della società, che ci ha ormai inculcato e ha preso piede, no? Perché da quando nasciamo abbiamo già un protocollo ben preciso da seguire. Che cioè, quindi tu il tempo lo subisci, non lo domini? Sì, in qualche maniera si può dominare, però bisogna sapere a che prezzo. Che lavoro fai, Roberto? Io mi occupo di indagini, controllo un po' la gente, la seguo. Fai l'investigatore privato? Sì, perfetto. Quindi tu sai tutto del tempo libero degli altri, tu controlli il tempo libero delle persone. Quelli che seguo effettivamente si prendono del tempo per dedicarsi alla compagna, alla ex. No, ah, okay. Quindi tu pensi che hai avuto modo di vedere che il tempo libero è dedicato fondamentalmente a storie extraconiugali? Certo, perché no? Tutto sommato fanno bene queste persone che si dedicano, giudizio. È anche un antistress, no, per loro. È un giudizio che non so quanto verrà condiviso. 800 24 00 24, Sergio, pronto? Sì, ciao. Che rapporto hai col tempo? Ma io sempre meglio, sempre migliore. Cioè, abbiamo iniziato un po' a fatica, però adesso viviamo bene. Perché al plurale? Io e il tempo, tutte e due. Io penso che sia reciproco. Il rapporto col tempo. Nel senso che io cerco di... Ho deciso che è inutile tentare di batterlo, come dice il Bianconiglio a un certo punto Alice. Io volevo dire una cosa. Prego. Che un trucco che ho è... Io faccio tante attività per piccoli o grandi progetti e... dedicare il tempo a celebrare la chiusura di un'attività. Cioè tu festeggi, fai piccolissimo da andare a bersi il caffè con quelli con cui hai fatto fatica, piuttosto che soffermarti. Io per esempio, se quando chiudo una cosa importante me ne vado da solo in un ristorante dove mi coccolano, mi siedo lì da solo e sto fino alle 5 del pomeriggio. Questo alla morte, cioè non lo cambio con altro, perché mi aiuta un po' anche a recuperare il senso della fatica che ho fatto e a dedicarmi, anche se ho sbagliato, anche se il progetto è fallito. Quindi ti guadagni il tuo tempo libero e ti guadagni la possibilità, diciamo, di ritagliarti del tempo per te stesso. E abbiamo un altro Roberto, pronto? Pronto. Eccoci. Buongiorno. Ciao. Che rapporto hai col tempo? Ma io sono fortunato, forse ho molto tempo libero, forse perché mi sono nel tempo organizzato il lavoro, faccio l'agente di commercio e non lo so, l'idea che mi sono fatto nella vita è che cercando di non vivere al di sopra delle mie possibilità ho trovato il modo di avere tanto tempo libero. Una mattina alla settimana me ne vado in barca a vela, poi non so, faccio un'altra attività che mi diverte, costruisco degli strumenti musicali. Quindi scusa, rinuncia a una parte del possibile guadagno? È questo? Ma sì, tutto sommato sì, cioè è un po' una questione di investimento. Io sono nel commercio, vendo delle robe e a un certo punto ho deciso di non correre dietro al business a tutti i costi, no? Cioè a un certo punto si può anche dire bene, questo mese è andata bene, qualche cosa verrà il mese prossimo, perché comunque hai fatto un lavoro di investimento sui clienti, sul tuo mercato. Bene Roberto, è diciamo un'ottima diciamo modo, però qualcuno potrebbe dire ma io non ci arrivo nemmeno lavorando 8 ore al giorno a quello che mi serve, come faccio a rinunciare? Francesco, ultima telefonata. Pronto? Ciao. Dimmi tutto, però al volo. Senti, no, al volo. No, io riesco, diciamo, ho un lavoro che mi permette di essere più libero, diciamo, durante l'ora di lavoro. E che ora è? Che lavoro è, scusa? Faccio l'agente di commercio, però diciamo... Ma gli agenti di commercio sono quelli con il miglior rapporto col tempo d'Italia. Sì, anche perché, guarda, per organizzarti gli appuntamenti, già di per sé prendiamo 20-30 minuti di spostamento, perché comunque si perde il tempo. E poi comunque riesco a ritagliarmi qualche fetta d'ora, di tempo per me, durante l'ora di lavoro. E più difficile da dopo il lavoro, perché quando torna poi a casa si è impegnati con la famiglia, i figli, sai, e quindi siamo schiavi del tempo libero, questa è la verità. La verità è anche che noi abbiamo finito il tempo. Le grandi domande della seconda vita. E allora io ringrazio anche quelli che durante tutta la settimana hanno, diciamo, risposto alla nostra grande domanda lanciata lunedì, ovvero quale lavoro vorreste fare per iniziare una seconda vita e per svoltare. Noi settimana prossima andremo a cercare alcuni dei lavori che voi ci avete indicato. Cominciamo anche lunedì con un lavoro che è quasi un luogo comune, da quanto la gente dice continuamente: io mollo tutto e vado a fare quello. Il tempo è veramente finito anche per in questa puntata in cui parlavamo del tempo. Vi dovrei dire tante cose, ma questa è la verità, non c'è tempo. Ci risentiamo lunedì. Io sono Achille Corea, grazie a Valerio Rocchetti, grazie a Fabrizio Intonti e grazie a tutti voi. Questa era Giro di Vita. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.